Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Raccontare ai consumatori il dietro le quinte di un'azienda, un marchio, una realtà produttiva, un'esigenza di comunicazione sempre più sentita che un importante gruppo della grande distribuzione ha deciso di fare, pensate, attraverso un film d'autore. Ne parleremo tra poco nel primo dei nostri approfondimenti. Brutte notizie invece nello spazio dedicato al retail. Raccontiamo la storia di un marchio storico, un altro purtroppo che non ce l'ha fatta. Focus sui trend dedicato infine alla Rinascimento Mania, quando il 500 fa tendenza. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità di questa settimana. La Danimarca è il primo paese al mondo a introdurre la Fat Tax, una tassa sui cibi grassi, gli alimenti che contengono più del 2,3% di grassi saturi. Snack e patatine, ma anche burro, olio, latte, formaggio, pizza, carne, biscotti e dolci. Per alcuni cibi, i prezzi saliranno anche del 15%. Servizio clienti incontattabile, rimborsi chimera e scarsa qualità dei servizi. L'associazione di consumatori Adiconsum ha attivato uno sportello per i clienti insoddisfatti dei siti di social shopping come Groupon, Groupalia, Glamour e simili. Risparmiare con il social shopping si può, dice il segretario Pietro Giordano, ma non è tutto oro quel che luccica. Libertà e anticonformismo. Compie mezzo secolo la Renault 4, l'automobile francese più venduta al mondo, simbolo di un'epoca che ha lasciato il segno. Nata per contrastare il successo della due cavalli della rivale Citroën, l'auto in jeans è stata prodotta fino al 1993. Ne sono stati venduti oltre 8 milioni di esemplari in 27 paesi diversi. Torna sulle tavole degli italiani il pesce fresco dell'Adriatico. Finisce infatti domani il blocco alla pesca in vigore dal 1 agosto scorso, deciso per ripopolare il mare. Contestualmente, fino al 29 ottobre, scatterà il fermo nello Ionio e nel Tirreno, da Brindisi a Imperia. Fast food e alta cucina per la prima volta insieme. Gualtiero Marchesi firma 3 ricette per McDonald's, 2 panini e un dessert. Se è vero che l'alta cucina ha determinato una rivoluzione del gusto a tavola, dice lo chef, ora è tempo di portare questo cambiamento a tutti, partendo dai più giovani. La borsa della spesa. Bella giornata. Oggi si va a Luna Park. Ma pensavo di portarti a sciare io. A me non mi piace. Io un'idea ce l'avrei. Ma io mi annoio. Come fai a dire che ti annoi, che non sei mai voluto venire? Sandrino, ma sei... Salgono in macchina. Ok. Tanto uno vale l'altro. Sono tutti uguali. No, questo è favoloso. Fidati di mamma, vedrai che mi ringrazierai. Era Il mago di Esselunga, il cortometraggio realizzato dal regista Giuseppe Tornatore per conto della catena di supermercati. Il film sarà stampato in 5 milioni di copie e distribuito gratuitamente da domani ai clienti fidelizzati, ai possessori cioè della carta Fidati. Non uno spot dunque, forse lo diventerà solo in futuro, ma per Esselunga una campagna televisiva sarebbe comunque una novità. Semplicemente il racconto e l'espediente narrativo è quello della favola del dietro le quinte dei punti vendita, racconto destinato ai clienti dell'insegna. È stato uno dei motivi che mi ha incuriosito e spinto ad accettare, ci ha raccontato Giuseppe Tornatore. Non avevo mai sentito un'idea del genere, insomma, quella di stampare tanti DVD e di regalarli a tante persone, insomma. E soprattutto che l'idea distributiva fosse solo questa in buona sostanza, perché poi forse si estrarranno degli spot, ma non è ancora sicuro. Quindi questa cosa mi aveva molto colpito, mi era sembrato un'idea molto moderna, molto, molto provocatoria anche. Questa cosa mi sembra così originale in un momento in cui le categorie tradizionali della distribuzione dell'audiovisivo sono totalmente entrate in crisi perché la tecnologia in qualche maniera sta stravolgendo tutto. Sai, io non è che faccio di mestiere quello che fai i film pubblicitari, però tra un film e un altro, siccome non ne faccio tanti, perché io di film ne faccio uno ogni 3 anni, tra un film e un altro, una o due volte, se ci sono dei progetti curiosi che mi divertono perché magari mi offrono la possibilità anche di sperimentare certe soluzioni visive, e allora li faccio. Ed è stato molto divertente. Come devo dire, è quasi sempre la pubblicità, è sempre molto divertente. Nel corto anche un cameo di Bernardo Caprotti, il patron di Esselunga. Tornatore è un grande seduttore, mi ha sedotto e mi ha fatto fare il vecchio panettiere. Ho detto, tu devi fare il panettiere, dico, porca miseria. Vado a casa la sera, mia moglie, mia figlia, gli dicono, ma come papà, ti metti a fare anche il Giovanni Rana? Ma no, dico, una cosa di forse neanche un minuto. E allora mi hanno messo in testa il cappello e Tornatore mi ha sedotto e me l'ha fatto fare. Scarpine, primi passi, addio, cambiamo argomento, sentiamo la storia che ci racconta il direttore di RetailWatch.it. Codice a barre di Luigi Rubinelli. I consumatori lombardi, ma soprattutto i milanesi, alla fine dello scorso luglio si sono svegliati con una brutta notizia. Gusella, Gusellino, Cose Comode, le tre insegne del gruppo Gusella non avrebbero più rialzato la Claire. Il curatore fallimentare, con annunci sui principali giornali, ne ha decretato la chiusura sine die. Cos'è successo? La risposta richiede un po' di tempo perché è un caso da manuale nel retail. Negli anni 80 e 90 l'azienda andava benone, mantenendo i suoi negozi storici nelle strade principali della metropoli lombarda, era riuscita a differenziarsi e a espandersi in altri comuni. Addirittura nei piani di crescita si parlava di Roma. Come altri negozi, hanno cercato di approfondire la complementarietà, accessori, abbigliamento e quant'altro, per dare un servizio ma anche per aumentare la marginalità. Sono entrati cioè in diversi settori merceologici che non conoscevano particolarmente bene. Si sa che il magazzino pesa finanziariamente sul bilancio delle attività commerciali e per questo sono nati i factory outlet. Di più, dal 2007 il consumatore è cambiato radicalmente, rifuggendo lo stilismo fine a se stesso, peggio se accompagnato da prezzi alti. Il mercato si è andato sempre più polarizzando fra trading up e trading down, con una forchetta di distanze sempre più accentuata. Stare in mezzo è diventato problematico per qualunque brand. Mettiamoci anche gli affitti, sempre più esosi, e il quadro è esaustivo. Può un'azienda notissima fallire? Sì, certo, se non si adegua. La notizia è di qualche giorno fa, il mondo intero piange Steve Jobs, il visionario fondatore della Apple, icona planetaria delle nuove tecnologie. Al sociologo dei consumi Mauro Ferraresi abbiamo chiesto cosa hanno rappresentato, cosa rappresentano per i consumatori i prodotti ideati da Jobs. Tra i tanti aspetti geniali di Steve Jobs, direi che forse quello più importante di tutti è stata la sua capacità di perseguire la semplicità e il divertimento. Il tutto applicato all'elettronica di consumo che, non dimentichiamocelo, prima del suo sviluppo e prima che Apple desse questa sterzata decisa e importante, era costituita da prodotti che andavano bene agli ingegneri, che andavano bene a chi doveva e poteva fare calcoli. In questi ultimi anni, dall'iPod in avanti, si può dire, c'era chi osservava che i prodotti Apple prima erano riservati a una tribù in qualche modo elitaria di consumatori, poi invece si erano allargati al mass market e quindi avevano un po' tradito la loro mission. Lei cosa ne pensa? Beh, penso che è il destino di tutti i prodotti di successo. Certo, è vero, probabilmente questo è accaduto. Ma io credo che se mettiamo sul piatto della bilancia il divertimento e la gioia del consumo anche musicale, che per esempio certi prodotti della Apple ci hanno dato, ma forse la bilancia pende a favore di questa mass marketizzazione del prodotto. Qualcosa forse ha perso in termini di identità, ma molto ha guadagnato in termini di godimento regalato ai consumatori. Essere e avere. Senta, noi ci siamo persi, no? Lì c'è una quercia, era grande stanotte, ora è piccina. Lui è un mio amico, Mario, sta male parecchio. No, insomma, volevamo sapere una cosa, non si preoccupa. Cioè noi qua siamo a Frittola, va bene, si sa, ma che siamo veramente nell'anno 1400, no? Quasi 1500. Ma allora io vedo. Oh! Quanto dura questo scherzo? Con una persona che sta male come Mario, gli ho detto prima, e continua a fare questo scherzo. Non sarebbe neanche per me, a me che mi interessa. Io lo scherzo lo reggo, è Mario che sta male, non reggo lo scherzo. Andare in giro vestito così, imbecille. Di nuovo in studio con Essere e Avere, facciamo anche noi oggi un salto indietro nel tempo. Non ci disperiamo però come i protagonisti di Non ci resta che piangere. Per il focus sui trend di questa settimana parliamo di Rinascimento Mania. Accanto a me, come sempre, la nostra esperta Patrizia Martello di Memetic Club, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, un saluto a tutti. Dalle serie TV ai videogiochi, passando per i festival a tema e le mostre, tanto per iniziare dai consumi culturali, ma senza dimenticare poi la moda, il design, l'arte. Questo periodo storico unico per l'Italia e per l'Europa sta attraversando una vera e propria riscoperta. Patrizia. Sì, nella amalgama postmoderna tra merci e cultura sono molti in questo momento i cortocircuiti, chiamiamoli così, stilistici con icone e appunto stili rinascimentali penetrati nel mondo dei consumi. Si ripete per esempio il connubio arte cinquecentesca moda, a cui peraltro non è nuovo, per il calzaturiere francese Christian Louboutin, che dopo le nature morte con scarpe e accessori del 2009, per la campagna stampa autunno-inverno 2011 ha realizzato un lookbook molto particolare che ricrea celebri quadri rinascimentali con soggetto femminile, in cui ha inserito le nuove scarpe. Le scarpe Louboutin sono quelle dall'inconfondibile suola rossa. Il fotografo è sempre lo stesso, è l'anglo-francese Peter Lippmann. Gli scatti sono 7. Si vedono così delle modelle dame con abiti, diademi, colori, acconciature, ma anche luci, atmosfere e posture, che sono delle perfette evocazioni degli intensi ritratti femminili rinascimentali a cui la Maison si è voluta ispirare. Improbabile non associarli all'opera di Alan MacDonald, altro artista pittore che inserisce in dipinti in stile Rinascimento non creazioni che sono esse stesse opere d'arte, ma oggetti simboli del consumismo contemporaneo, per dirla con una frase fatta, ma che fa capire il suo messaggio critico. Un esempio su tutti, un ritratto maschile mezzo busto di profilo che tiene in mano una lattina di Coca-Cola. Remix artistico anche per lo scultore polacco Kordian Lewandowski, che si è ispirato niente poco di meno che alla Pietà di Michelangelo, riproducendola però con due personaggi totalmente bianchi anch'essi, ma non marmorei bensì di polistirolo, di un noto videogioco di Nintendo, Super Mario, sdraiato tra le braccia della principessa Peach. L'idea, dice l'artista 26enne, è evidentemente di un mashup, di un rimescolamento pop dissacrante ed effimero tra cultura rinascimentale e cultura e mondi digitali. Altra versione della Pietà, altro artista che espone a Venezia in questo momento alla nuova scuola grande di Santa Maria della Misericordia, è Jean Fabre. Una delle sue opere, titolata Pietas, la Madonna ha un teschio al posto del viso e l'artista stesso prende il posto del Cristo, tiene un cervello in mano, di nuovo un soggetto iconico della storia della scultura rinascimentale, ricontestualizzato e risignificato. E a proposito di gesti dissacranti, possiamo definirli tali: per chi ha il coraggio di farlo, ci si può sedere su un capolavoro leonardesco, cioè sulla sedia Mona Lisa. Si chiama Mona Chair, è stata progettata dal designer coreano Kwang Oh Lee, è una sedia pieghevole, appoggiata alla parete, è una copia del quadro di Leonardo con cornice baroccheggiante, che diventa lo schienale una volta aperta, e l'immagine della Gioconda diventa il piano seduta. È una riproduzione dell'immagine d'epoca per eccellenza, trasformata in oggetto di design contemporaneo. Ed è ispirata alle vicende della più potente e discussa famiglia del Rinascimento, la serie TV evento I Borgia, un vero e proprio colossal frutto di una coproduzione europea costata 30 milioni di dollari. Mio padre è morto, dei miei fratelli due sono lontani, uno a combattere i Mori in Spagna, l'altro a Pisa a studiare da prete, l'ultimo è troppo giovane. Chi penserà al mio matrimonio? Il cardinale Borgia, tuo zio, è ovvio. Quando? Che cosa sta aspettando? Il mio sogno è guidare Roma. Anzi, tutta l'Italia. Guidarla verso una nuova età dell'oro. Riportare la città eterna al predominio sul mondo. Migliorare la vita di tutto il popolo, come i miei omonimi, Giulio Cesare e Augusto. Udite che a Firenze alle donne è permesso di mangiare con gli uomini? No. Ebbene, quando sarò contessa di Oliva, pretenderò di sedere allo stesso tavolo di mio marito. Patrizia, che cosa fa più presa? L'ambientazione, le storie, le atmosfere, la loro riattualizzazione, che cosa? Ma sono tutti elementi chiaramente che fanno di questo contenuto, diciamo, un bouquet di temi in realtà universali e densi anche di analogie con ogni epoca storica e con il presente. I temi sono potere, scandali, ma anche lussuria, ambizione, avidità, omicidi, insomma, per dirla un po' con uno slogan, la storia al veleno. Per argomento e taglio, questi sono due forti attrattori in questo momento per i pubblici di riferimento. Oltre a quella che abbiamo sentito nella scheda, c'è una seconda serie eventuale di successo, di nuovo sulla storia della spregiudicata famiglia Borgia. Si tratta di The Borgias, serie statunitense con il premio Oscar Jeremy Irons. I costumi, tra l'altro, sono di Gabriella Pescucci, premio Oscar per L'età dell'innocenza. La serie è ideata da Neil Jordan, che aveva già tentato di fare un film sul papato di Rodrigo Borgia, e prevede 4 stagioni. La prima è andata in onda su Showtime dal 3 di aprile. Il miglior esordio, tra l'altro, per un dramma su questo canale via cavo a pagamento, che ha registrato più di 1 milione di spettatori alle 9 di sera. Nonostante il calo negli ascolti, la seconda serie va comunque in onda, saranno 10 episodi nel 2012. Contenuto finzionale, quello rinascimentale, è declinato anche nei moltissimi parchi a tema e di divertimenti che riproducono vita, mestieri, i villaggi e i costumi del 400 e del 500 europei, come il Renaissance Theme Park ungherese di Bikal, ancora menù enogastronomici che moltissime città d'arte e festival hanno lanciato e rilanciato quest'estate, mostre celebrative dell'Italia rinascimentale come Splendori del Rinascimento, dove Splendori si riferisce agli abiti. Dal 15 settembre a Madrid, dopo Pechino e New York, sono 30 pezzi unici di altissimo artigianato tessile sul modello dei vestiti delle grandi corti dei Medici, degli Este, dei Gonzaga. Mostra molto importante anche per il sistema moda, visto che la storia del costume rinascimentale italiano è un riferimento continuo per l'haute couture internazionale. Pensiamo solo a Galliano, forse il designer più storico di tutti in questo senso. Altra mostra appena inaugurata agli Uffizi di Firenze, Tempio della pittura rinascimentale, sui tarocchi, ma i tarocchi reinterpretati in chiave contemporanea dal pittore Francesco Clemente, che ha disegnato artisti, designer, attori, persone amiche, anche suoi familiari, che sfilano in veste araldica. C'è per esempio Jasper Jones, la stilista di Anne von Furstenberg, c'è lui stesso appunto nel lasso di spada nel matto, c'è la moglie, eccetera. Nuovi soggetti in queste carte da gioco, che erano anche carte divinatorie usate per la cartomanzia all'epoca. E nel mondo musicale si chiama Charlie Luker, è un eclettico multistrumentista, cantautore emergente di Brooklyn. Ha appena creato un nuovo progetto artistico con relativa band che si chiama Seven Tears, 7 lacrime, ma scritto come si scriveva nell'inglese rinascimentale, cioè Seaven Teares, come l'opera del compositore John Dowland del 1604. La band usa strumenti musicali di fine rinascimento come organi e liuti. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Danvers su Rinascimento e Consumi? Ce lo racconta come sempre la nostra Urban Watcher Alessia Zampano. Buon pomeriggio, Alessia. Un saluto a tutti. Difficile scoprire qualcosa di più sullo stilista Nicolas Van der Rohe. Bisogna limitarsi alle scarne e volutamente ambigue righe della biografia che compare sul suo blog, da cui si apprende che nasce a Anvers, appunto, come designer di tessuti, specializzato in un'arte antica e certosina, il ritratto su arazzo, che case reali e clienti prestigiosi gli commissionano da tutto il mondo, e che questo gli è valso nel 2005 la nomina a cavaliere di un fantomatico quanto probabilmente immaginario ordine degli arazzi neri. Lo stesso mistero sembra avvolgere il capo delle modelle che Nicolas ha scelto per presentare la sua ultima collezione di foulard in pura seta. Fedele alla tradizione delle sue fiandre, gli scatti riproducono nella posa, quella tipica di tre quarti, e nella luce, i ritratti dell'arte fiamminga, i cui maestri, ricordiamolo, ponevano particolare cura proprio nel rendere la preziosità tattile dei tessuti. E le modelle in abiti rinascimentali, con i foulard appunto a incorniciarne il volto, traducono bene il senso senso profondo e mistico di cui è intrisa la materia che Nicolas produce e manipola e su cui concentra la sua personale ricerca. La volta celeste, la natura, l'infinito sono le fonti costanti di ispirazione e i soggetti delle sue apocalittiche, potremmo definirle, creazioni. Un'alchimia che si trasforma in realtà. Grazie Alessia. Patrizia, nel mondo dei consumi siamo abituati al recupero ciclico di determinati periodi. Quello che ci piace però sempre sottolineare è il messaggio di fondo, l'ispirazione che insieme agli aspetti formali viene recuperata. Per il Rinascimento qual è? Dunque, certamente è un recupero, come dicevi, manieristico, cioè gli esempi dal mondo dei consumi sono operazioni alla maniera di, come non potrebbe essere altrimenti ogni volta che si cita e si recupera qualcosa dal passato. Però è importante anche sottolineare la potenza della metafora del Rinascimento, che appunto significa rinascita, rinascenza, quindi un'idea di profondo rinnovamento culturale con l'uomo, con l'individuo al centro dell'universo, e questo portato simbolico non di poco richiamo e non affiorante per caso in questo momento storico forse è il senso di questo dilagare di segni rinascimentali nel mercato. Finisce qui anche questa puntata, resta solo il tempo per ricordarvi il nostro sito radio24.it. dalla sezione podcast potrete riascoltare e scaricare questa come le altre puntate di Essere Avere, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.